E allora, abuso della mia qualità di presidente per intervenire io per la prima volta e poi veramente il professor Pesce. Dunque io devo fare solo una domanda di carattere storico, cioè altri, lei ha dimostrato come si è, le varie posizioni che c'erano nella Fiorentina intorno al primato papale. Mi domando se a Tridentino si è ricordata la definizione del Fiorentino del 6 luglio 1439 di Finimus, Santa Apostolica di Sede del Romano Pontifice, in universo morta, tenere primato, eccetera. Mi sembra, non so, che questa definizione sia stata sterile storicamente, anche se poi ripresa alla lettera dal Concilio Vaticano I, il 18 luglio 1870. È una mia illusione, un errore mio, oppure c'è qualche fondamento? Ma può venire? Sì. Ma hanno preso questa formulazione del Concilio Fiorentino perché c'era la lotta fra i francesi e il punto di vista della storia romana o di Roma. E poi a Roma hanno pensato che si prende una formula, una definizione che è già definita da un concilio, questo sarebbe una soluzione. Ma questo era un errore perché i francesi hanno detto subito: no, noi rifiutiamo il Concilio Fiorentino perché noi riconosciamo il Concilio di Costanza e di Basilea, perché hanno anche riconosciuto il Concilio Schismatico di Basilea, perché hanno preso alcuni decreti e hanno popolato questa a Bourges, no? Questa pragmatica stazione di Bourges, no? E perché hanno rifiutato il Fiorentino e hanno proprio rifiutato queste parole Papa Ecclesiae Universalis Episcopus e pascendi, recenti e governanti sì, questa cosa sì. Esplicare ipsi in beato eco pascenti recenti a governanti universale l'Ecclesia in Domino nostro Gesù Cristo venam potestatum da alta messe eccetera. E da parte romana era hanno creduto che sia una soluzione del problema, che in realtà non è stata una soluzione. E poi hanno accettato, perché era la prima volta che il primato è stato espresso in un concilio prima del Fiorentino, non ricordo che sia. Zusammengestellt und gewissermaßen die Ekklesiologie, die inkognito zugrunde lag, rekonstruiert. Ich frage, ob das geht. Zum Vergleich. Bei Thomas von Aquin gibt es bekanntlich auch keinen Traktat De Ecclesia. Man hat ebenfalls oft versucht, aus den impliziten Aussagen eine thomistische, thomanische Ekklesiologie zusammenzustellen. Das ist in der Thomasforschung inzwischen aus guten Gründen aufgegeben. Was bedeutet es, wenn Sie dieses Verfahren beim Konzil anwenden? Darf man aus Implikationen eine Ekklesiologie rekonstruieren? Oder wird man nicht gerade als Historiker es ernst nehmen müssen, dass eben das Bedürfnis zu einer systematischen Ekklesiologie zur Zeit des Konzils und in der Zeit davor nicht bestand? Die Kirche als Thema war nicht vorhanden. Es gab nur einzelne Konfliktfelder des kirchlichen Lebens. Drittens, die faktische Ekklesiologie, wenn ich einmal so reden möchte, die faktische Ekklesiologie, die Sie herausgearbeitet haben, scheint mir nichts anderes als die Fortsetzung jener, ich sage in Anführungsstriche, Ekklesiologie, die sich seit dem 14. Jahrhundert in Traktaten entwickelt hat, meist Traktaten von Kanonisten und meist nicht mehr als ein Traktatus de Potestate Papae. Viertens, Luthers Frage, was ist denn nun die Kirche, ist also auf dem Konzil ohne Antwort geblieben. Ich will nicht behaupten, dass Luther der Erste war, aber er hat doch in diesem Kontext mit einer Öffentlichkeitswirkung, die ohne Beispiel war vorher, die Frage theologisch gestellt, was ist Kirche? Und man kennt die bekannten Formeln, der Haufe derer, die an Christus glauben, das Volk Gottes bei Luther, wie im Zweiten Vatikanischen Konzil und so fort. Diese Frage ist ohne Antwort geblieben. Darf man dann eigentlich so verwundert sein, wenn auf katholischer Seite die Institutionalisierung und das rein institutionalistische Verständnis der Kirche auf evangelischer Seite eine Dominanz der Vorstellung von einer unsichtbaren Kirche provozierte, eine Vorstellung, die von Luther abrückt, aber unausrottbar auf evangelischer Seite und auf katholischer Seite auf Luther projiziert wird. Sì, posso dare la risposta in italiano? Si vede? Sì. La seconda domanda è una questione del metodo. Lui dice, si domanda se io ho il diritto di parlare di una ecclesiologia metodicamente che in realtà non esiste, ma io rispondo su questo. Invece Thomas von Aquin i sistematici che si occupano di Thomas von Aquin hanno lasciato questo metodo. La terza domanda era la ecclesiologia in prassi, non in teoria ma in prassi, e lui ha l'impressione che sia una sì, tradizione della ecclesiologia medievale che era soprattutto canonistica, perché c'erano specialmente i canonisti che hanno trattato l'ecclesiologia durante l'Antico Testamento e poi lasciato i volumi. E la terza domanda la questione di Lutero, la Chiesa è rimasta sine una soluzione sul Concilio questa zona. Man sieht, primo, io traduco, man sieht, sie sind systematico und wir historico, und wir haben da auch in diesen Tagen uns oft dargestellt, sono diversi punti di vista del sistematico e dello storico, perché per noi i documenti sono in primo piano documenti storici, con tutta la relatività, no? E con tutto il coinvolgimento nel tempo, nella coscienza del tempo, eccetera, eccetera. Invece i sistematici vogliono sempre fare un sistema e lasciano e trascurano le piccolezze che noi dobbiamo prendere sul serio, no? Questo. Io non ho, Hans Schaden, ja. Io non volevo dire che esisteva una ecclesiologia, ho detto proprio che non esisteva una teologia ecclesiastica o una ecclesiologia unitaria. Io volevo dire che io non ho costruito, questo era, io non ho costruito una ecclesiologia tridentina. E perché la sua domanda in certo senso va in seguito nel vuoto, perché io non ho costruito. Il mio dovere è stato soltanto di mostrare le idee, le diverse idee, anche nella loro contraddizione, e l'una idea accanto all'altra e altri nella sua contraddizione del Concilio di Trento. Ma è legittimo per noi gli storici, è legittimo di toccare anche questioni che sono implicite, no? Questo, per esempio, il sacramento o i sacramenti, e si dice ognuno che ha ricevuto il battesimo appartiene alla Chiesa, è legittimo di dire, come ha fatto Alberico, che dietro di questo concetto esiste una certa esperienza, un certo concetto, no? E questo è legittimo, ma noi non facciamo un sistema di questo. Volevo soltanto dire, sono cose che toccano l'ecclesiologia senza dare una risposta sistematica su questo fatto. La terza domanda, la continuazione dell'ecclesiologia medievale, in un certo senso questo è vero, perché durante il Medioevo specialmente sono stati i canonisti che siamo occupati. Io ho lavorato la mia tesi di abilitazione, è stata una tesi di storia del diritto canonico, è anche uscita in una collana del diritto canonico, lo sviluppo delle riserve papali, vescovati, sotto il punto di vista dello sviluppo del primato, sì. E l'ecclesiologia, in questo senso è vero che l'ecclesiologia anche a Trento, le discussioni sul papato, episcopato, eccetera, erano in un certo senso teologiche, discussioni teologiche, ma anche canonistiche, l'essere la giurisdizione è soprattutto un problema della giurisdizione. Diritto canonico, no? La questione di Lutero, che cosa è la Chiesa? Questa domanda non si hanno posato. Questo è vero, al Concilio. Avevano dato risposte implicite nei sacramenti, giustificazione e anche la teologia della giustificazione contiene tante idee ecclesiastiche. perché la grazia infusa dei protestanti è un'altra cosa. In questo punto di vista, in questo punto di vista, la Chiesa ha un altro valore se la grazia è soltanto infusa, invece se la giustificazione conferita al battesimo, la Chiesa è lo strumento, no? Come anche teologi moderni dicono, il sacramento originale, no? E fino ad oggi, nelle discussioni anche delle ecumeniche, questo punto è sottovalutato. Si parla della Chiesa, ma la Chiesa, come dico, come istituzione, ma ha un altro valore nel senso cattolico, perché è in certo senso mediatrice della grazia, no? Mediante i sacramenti, battesimo, eccetera. Invece, se lei prende sul severo, come Lutero, la salvazione extra nos, e soltanto la grazia infusa, come Lutero proprio, sì, ma ho lottato anche con teologi luterani, per esempio Pierre Paolo e Vandenburg, eccetera, eccetera. Sì, sostengono fino ad oggi questo. In questo senso la Chiesa ha un altro valore. Io vorrei, io non sono un ecumenista di professione, vorrei soltanto toccare queste cose, e in questo senso sono diversi anche accenti, no? E la quarta domanda, sì, che non hanno posto la questione la Chiesa, non hanno avevano l'intenzione di fare un trattato, un decreto sulla Chiesa. Questo, in nessun momento questo è stato discusso. Allora, ma possiamo lottare privatamente più. Il professor Peri voleva parlare. No. Sì. E allora poi qui c'è un foglio, se quello che avete fatto questo foglio avete visto letto, perché lo devo leggere io. Ma io spero che il problema non sia troppo particolare. Comunque chiedo, il problema del rapporto tra la Chiesa istituzionale e i carismi storici della Chiesa, cioè l'esistenza di carismi storici all'interno della Chiesa istituzionale, è stata presente nei lavori del Concilio di Trento, cioè i carismi sia a livello teologico sia nei suoi aspetti giuridici e pastorali, come ad esempio il carisma degli ordini religiosi, il rapporto alla vita religiosa o il rapporto alle strutture diocesane. Questo problema dei carismi storici all'interno dell'istituzione ecclesiastica è emerso, non è stato trattato? È una domanda la mia, che appunto, se è troppo particolare, chiedo scusa. Sì, no, hanno citato documenti storici, ma la coscienza storica in questo senso, non, come si è sviluppato dopo, questo non era presente durante il Concilio. Hanno usato i libri anche la storia dei concili, di Grave, eccetera, eccetera, hanno citato, ma quando era necessario, per esempio Cervini, dopo l'intervenzione di questi padri, lui ha preso un volume di concili, ha cercato, no? E gli altri hanno fatto lo stesso, no? Perché non avevano coscienza storica, come si è sviluppato dopo. Ma è una risposta per la domanda, perché prima fisicamente no, sentito la domanda, è soddisfatto come Giampiero Boff, continua a essere io. Ancora una volta il mio discorso è di carattere soprattutto teologico e si rivolge al professore, posso parlare in italiano? Anche se guardo un po' al discorso del professor Ganzer. La ricostruzione dell'antropologia teologica che lei ha fatto mi pare del tutto plausibile, ma io non entro ora nel discorso, lo assumo come ipotesi. Se questa ipotesi è proponibile, allora bisogna chiederci che cos'è un concilio, il quale si struttura su una impalcatura antropologica della quale noi non possiamo accettare pressoché nulla. Ieri si è presentato il discorso del valore che ha l'aristotelismo. Mi pare che di fronte a quest'altra domanda il discorso di ieri appaia in tutta la sua levità, in tutta la sua inconsistenza. Se addirittura noi abbiamo cambiato radicalmente la concezione dell'uomo, come possiamo oggi riproporre la dottrina del predestino, addirittura dogmaticamente? Non voglio con questo bruciare tutto, dico soltanto che la riflessione ermeneutica oggi ha una urgenza assoluta, fuori dalla quale il riparlare o il continuare a parlare di dogmi è veramente un non senso giustificato soltanto dalla mancanza di onestà intellettuale. Questo significa una impresa di storicizzazione quanto mai importante con tutti quegli strumenti che oggi tale storicizzazione permettono. Allora io chiedo, questa mia deduzione è totalmente folle o ha qualche plausibilità? Professor Pescio chiede di intervenire, no? Autonome, au moins un homme partenaire à Dieu sur le même plan. Ajouter charbon par la grâce, mais pas dépendant à elle du fond d'un comble. Inacceptable pour une position luthérienne au réformateur. Troisièmement, moi, je lis les textes tout à fait autrement. Je peux expliquer cela pas seulement globalement, mais je dis ma thèse. Certains pères sont influencés et, pour ainsi dire, conditionnés par un humanisme optimiste. Mais vis-à-vis de la provocation et des questions sérieuses des réformateurs, ils s'engageaient, il me semble, dans un nouvel dialogue avec les sources augustiniennes de l'anthropologie. Le décret du péché originel, le décret de la justification, confirme tout d'abord les résultats de la controverse pélagienne et semi-pélagienne, malgré toutes les difficultés que ces résultats importaient pour leurs conditions humaines. Et quatrièmement, en arrière-fond, on peut saisir la fameuse spéculation sur la natura pura du XVe siècle, même dans dans l'école thomiste. Une natura, une spéculation, une discussion que je ne vais pas expliquer ici en détail, car on les connaisseurs a convaincu que toucher cette discussion, c'est comme nous disons en Allemagne, commencer le repas d'éléphant. Gli interventi sono pochi, forse me li fate subito. Professor Prodi. Una semplice domanda, ringraziando il professor Degan per la sua chiarissima esposizione. E riguarda il rapporto, insomma, ecco, tra l'antropologia proposta da Trentino e l'antropologia luterana evangelica. Ecco, non dal punto di vista teologico, secondo quanto ha detto adesso il professor Pesce nel suo intervento, ma proprio dal punto di vista storico. Cioè, a me preme capire se è vero che c'è in qualche modo una partenza comune da esigenze comuni, da problematiche comuni nella cultura dell'epoca, oltre che nella mentalità collettiva, eccetera, con esiti differenti, come mi pare per esempio di capire dalla sottolineatura che il professor Denaro ha fatto del catechismo e delle conoscenze necessarie per la salvezza. Sappiamo tutti appunto che in realtà il catechismo è una creazione evangelica, che il Concilio di Trento in qualche modo non dico recepisce, ma fa proprio, questo possiamo già dire. Cioè, a me sembra che in qualche modo di fronte ai testi differenti noi abbiamo un cammino, diciamo, che di metodo, insomma, che porta alla confessionalizzazione e che è un cammino che presenta molte somiglianze al di là appunto degli esiti differenti su singoli problemi più importanti. Aggiungo pur soltanto che a mio parere come storico, diciamo così, e non come teologico, quello che mi pare di capire nei decenni terzo, quarto e quinto del Cinquecento è un'accentuazione della diversità degli esiti strumentale alla polemica, sempre più strumentale rispetto alla apologetica e alla contrapposizione dei fronti, cioè Io come storico credo di dover sempre prendere con le molle, come diciamo in italiano, di modo rectifidans, le discussioni su singoli temi quando queste vengono usate strumentalmente per una contrapposizione di schieramenti, che ormai sono schieramenti che combattono, lottano tra loro. Questo credo che si possa dire, particolarmente per questi decenni. Da questo punto di vista, credo che insomma c'è un problema invece ecclesiologico della teologia, c'è un clarait teologico nel senso. Ecco, mi sembra che questa sottolineatura della teologia di Uncla Wright finisca però per trascurare questo tipo di confessionalizzazione, insomma, di formalizzazione, che invece diventa una troppo importante nell'opera di Giovanni Cinque. Il professor Cassese, e con questo chiudiamo. Io vorrei ringraziare le due relazioni che veramente hanno edificato veramente il nostro pensiero. Vorrei fare una domanda a tutti e due, al professor Ganzer, di cui ho apprezzato veramente l'analisi di quanto pullulava all'interno del concilio. Faccio questa domanda. Dalle varie teologie, poi nelle varie ecclesiologie presenti al Tridentino, chiedo, attraverso l'analisi dei decaretti finali, si può evincere quale di queste ecclesiologie abbia, diremmo così, sia stata vincente, abbia prevalso? Io chiedo soltanto come leggere, per esempio, i tre canoni della 23ª sessione, quando si parla di gerarchia, quando si parla che i vescovi ricevono il mandato da Dio e i vescovi poi hanno la giurisdizione del Papa, eccetera. Spero che la domanda sia chiara. Una postilla. La Chiesa e il mondo cattolico è mediatrice, ha la funzione di mediazione di salvezza. Possiamo dirlo o escluderlo completamente dal mondo protestante? Lutero dice che la fede viene dall'annuncio della parola, ma dice anche che la parola è nella Chiesa, e la Chiesa la portatrice della parola, quindi la comunità in questo senso, la congregazio fidei. Professor Venaro, qui non è stato citato la sua tesi di abilitazione, io ho avuto l'opportunità di leggerla, è stupenda, la riforma contro la riforma ad Avignone. Voglio veramente qui anche ringraziarlo per questo contributo, questa poderosa opera. Chiedo, la visione dell'uomo in ambito del Concilio di Trento, positiva, ovviamente, ottimistica, fin dove arriva questo ottimismo? Mi permetto di ricordare che la giustificazione non è solo remissione dei peccati, ma è anche santificazione. Qui abbiamo il rappresentante ortodosso. Questa santificazione, come leggerla? Partecipazione, cristificazione, partecipazione alla natura divina, cristificazione, ci dicono i teologi ortodossi. Insomma, è dunque una elevazione dal piano umano al piano divino, però c'è anche un'ambivalenza nella visione o nella lettura o dalla lettura dei decreti. Si può cogliere un'ambivalenza quando nella sessione sesta, capitolo decimo, si parla di giustificati e untes de virtute in virtute renovantur. Dunque, cioè anche una santificazione in fieri. Dunque, mi pare, ecco questo, io non voglio tirare nessuna conclusione, Però mi pare che da una parte si parli di un qualcosa che si è raggiunto, quindi la partecipazione alla realtà divina, dall'altro canto questa esigenza di una santificazione in fiere mi ricorda quello che anche il mondo luterano, Lutero, andava dicendo, che questa santificazione ha un inizio che finisce però in un momento escatologico. È vero, il nostro Sericano, in sostanza, l'autore anche di questo decreto, mi fa sentire anche, no, all'orecchio quello che a lui stava a cuore, no? Questo processo di santificazione che lui aveva imparato da Agostino in poi, ma anche al suo ordine, nel momento in cui egli presenta il Concilio di Trento, potremmo dire lui è il punto finale di tutta una discussione all'interno del mondo agostiniano o degli agostiniani che popolavano, cioè il problema della doppia giustificazione. Di Trento. Una domanda e una riflessione un po', anche un tentativo di bilancio provvisorio di quello che ho sentito tra ieri e oggi. Ci stiamo applicando un po' a questo approccio ermeneutico al concilio di Trento, no? E abbiamo sentito più volte l'invito a saper storicizzare, a saper contestualizzare i risultati, le affermazioni del Concilio di Trento. Mi riferisco in modo particolare alla relazione del professor Pesce, che anche il Concilio di Trento avrebbe risposto alle domande del suo tempo. Ecco, io vorrei quasi un po' rilanciare le questioni che poneva padre Baranzini ieri, no? Cioè, in questa necessità di ermeneutica, di contestualizzare così, qual è il ruolo permanente del Concilio? In che senso è stato creduto una tappa fondamentale della tradizione cattolica, della tradizione conciliare, in maniera più specifica? Io vorrei che non la sfuggissimo questa questione, no? Mi sta benissimo, come dire, l'approccio abbastanza riduzionista che ne viene fuori sull'antropologia, sull'ecclesiologia. E allora dico, forse la tradizione del Concilio o i risultati del Concilio sono magari più che nel campo teologico, che mi pare sembrano per così dire scomparire, ma non mi fa problema questo, e non sono forse invece di più quelli di modernizzazione o così, quelli che sono stati a tema del convegno dell'Italo-Germanico 15 giorni fa. Cioè, mi sembra che venga fuori una importanza del Concilio di Trento più in quegli aspetti lì che non in quelli teologico-ecclesiali, no? E questo per me è già un risultato, se è questo un po' il facit, come dicono i tedeschi, insomma, un po' di... Io vorrei quasi più che dire, rilanciare una domanda, insomma, per questo giorno e mezzo ancora. Cassese, quale teologia, ecclesiologia ha, sì, quale teologia ha vinto? C'erano né vincitori né vinti al Concilio, perché hanno lasciato aperto, e noi abbiamo parlato su questa questione due settimane fa durante l'altro simposio, perché il futuro ha dato delle risposte in diverso senso, no? Il gallicanesimo durava fino alla fine dell'Ancien Regime, no? e al Novecento è lo sviluppo dell'ultramontanesimo, eccetera, il primo Vaticano, il secondo Vaticano, ma secondo me è molto importante, questo vorrei sottolineare ancora una volta cosa ho detto al principio del mio, della mia relazione, che non è, esiste una ecclesiologia, anche da oggi in poi, non per tutti i secoli, perché l'ecclesiologia è il luogo teologico che è coinvolto con tutta la mentalità, la coscienza dell'età, è coinvolto nelle questioni sociali, politici. Ho detto che non è, è ovvio che tante concezioni del monarchismo, della monarchia come struttura dello Stato, della politica, eccetera, sono entrati nel concetto del primato anche, perché il Papa è stato anche monarca, no? Capo di uno Stato, e anche durante il Medioevo non si aveva una concezione di democrazia, ma c'era la monarchia, fino ai tempi recenti è stato il concetto, e questo ha anche influenzato il concetto monarchico del primato. All'altra parte, quando abbiamo oggi le discussioni, molti dicono è la colpa del Concilio Secondo Vaticano, questo ha fatto l'apertura adesso, ma non si prende in considerazione che dopo la chiusura del Concilio c'era questo movimento, come noi in Germania dicono il 60, il 68, no? Il movimento completo della situazione non soltanto politica ma anche della coscienza, e le domande e le richieste democratiche adesso non sono venute soltanto dal seno della Chiesa ma sono influenzate dal fuori, e se il popolo cristiano chiede più di allora perché nella società adesso sono le esigenze, le domande, e questo influsso anche, ha anche un influsso sull'ecclesiologia, e perciò la mia opinione è che non esiste mai una ecclesiologia perenne per tutti i secoli, perché noi non sappiamo quali questioni hanno nel secolo prossimo. Oh, sì. E perciò l'ecclesiologia non si può fare un trattato ecclesiologico, secondo me, che è stabile e perenne per ogni tempo e per tutti i secoli. E questo deve anche prendere in considerazione quella Cassese, no? Con queste domande. E la seconda domanda, Lutro e la Chiesa. Ho detto alcune volte all'altro simposio che non si può porre questioni al Concilio che erano fuori della loro intenzione, e noi anche in questo senso si può dire anche in altri sensi, il Concilio di Trento non ha voluto e non ha dato risposte per ogni cosa. In questo cosa è una lacuna. Ha tante lacune. Allora, ringraziamo i relatori e anche ringraziamo il professor Interzone. Hélas, je me trouve devant une cascade de questions. Ce serait un nouveau rapport à faire. Je vais seulement m'expliquer sur quelques points. Au premier intervenant qui pensait que qui rappelait le conditionnement intellectuel de tous les participants du Concile, je donne amplement raison. Je pense qu'effectivement, ce que j'ai appelé le contenu implicite du Concile, c'est l'aristotélisme et la scolastique telle qu'elle leur avait été enseignée. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, mon premier mouvement avait été de chercher l'article du Dictionnaire de théologie catholique, et que j'ai été si surpris de ne pas le trouver, car ces gens vivait et connaissait une certaine anthropologie. Aux questions du professeur Pech, premièrement, sur un plan d'approche méthodique, je n'ai pas essayé, et je n'apporte pas de preuve que le Catechismus Romanus est l'expression du Concile de Trente, l'expression exacte du Concile de Trente. Je l'ai posé en hypothèse, parce que, comme l'a bien dit le professeur Alberigo, pour le Concile de Trente, la période qui a suivi est aussi importante que les sessions elles-mêmes. Et là, finalement, du Concile de Trente, qu'est-ce que l'immense population catholique, majorité de la population catholique a connu? C'est la traduction qu'en donnait le Catechismus Romanus. Fidèle, pas fidèle, sur les points théologiques les plus délicats, je ne sais pas. Et en tout cas, totalisante, elle, c'était un manuel complet de ce que le catholique devait faire et croire, ce que, à l'encontre du Concile, qui n'avait pas prétendu du tout avoir cette vision totale ou totalisante. Les deuxièmes et troisièmes questions, je les bloque. Effectivement, le décret sur la justification et tous les travaux qui ont lancé son passant tout sont un admirable effort d'équilibre. Et les mots sont pesés, le travail a été fait avec un soin extrême, et c'est bien parce que j'avais l'impression de m'aventurer dans un terrain assez connu que j'ai fait les choses, que je vous ai dit les choses à très gros traits, au risque de les forcer. Vous avez raison, optimiste, pas optimiste, les pères voulaient absolument ne pas tomber dans l'optimisme, j'allais dire béat, d'Erasme, et par conséquent, il faut effectivement un effort que certains trouvent insuffisant, Cyril Pando par exemple, de retour à l'augustinisme. Et donc, moyennant quoi, historiquement, c'est quand même le côté optimiste du Concile, c'est-à-dire l'énorme encouragement qu'il a donné à l'effort humain qui a marqué le catholicisme. Mais précisément parce que le versant augustinien paraissait insuffisant, ça a refait surface moins d'un siècle après avec toute l'affaire janséniste. Quant à votre quatrième question, M. Pech, elle était j'avoue trop technique pour moi et je n'ai pas de réponse à ce sujet. À propos de la question de Paolo Prodi, d'où je retiens pour l'instant simplement l'expression connaître, il faut savoir des choses pour être sauvé, qui est la base de tout effort catéchétique, protestant comme catholique, il y a une, au moins à ma connaissance, mais peut-être d'autres, une source commune dans l'Église du XIVe et XVe siècle, notamment autour du chancelier Gerson. L'utilisation apologétique, la préoccupation apologétique du Concile et surtout son utilisation après, ensuite, ça, certes, et probablement d'ailleurs d'une apologétique trop figée, trop bornée, les débats qui avaient surgi à la Réformation autour des conditions du salut, du péché originel, de la justification ou des sacrements, ont empêché les églises, toutes les églises, de prendre en compte les questions autrement plus difficiles. Poser l'humanisme et la Renaissance, questions qui ont refait surface au XVIIIe siècle, et à ce moment-là, les églises, toutes les églises, étaient totalement démunies pour les comprendre et pour les répondre. Donc, M. Cazès, sur lorsqu'il était vision optimiste de l'homme, je viens de répondre, je crois, à peu près, maintenant, sanctification, mais une sanctification, je ne sais pas si c'était bien le sens de votre question, mais moi je dirais une sanctification individuelle. l'escatologie collective est totalement absente du Concile de Trente. Et dans le catéchisme, vous avez vu qu'elle est bien pauvre. Sans dire, le Concile de Trente est très individualiste. Ce qui m'amène à répondre à la dernière intervention, qui est en même temps la plus vaste, la plus difficile, quelle est l'apport permanent du Concile, quelle est son importance. Moi, comme historien, peut-être même aussi comme catholique, je serais tenté de dire que c'est une période close. L'importance du Concile de Trente était capitale sur 4 siècles, ce qui n'est pas rien. Il faut voir vers 1920, le pape Benoît XV, voulant rappeler aux évêques l'importance du catéchisme, ne faisait pas d'autre chose que leur recopier le décret du Concile de Trente sur le catéchisme, sur l'instruction des choses. Donc, 350 ans après, on répétait toujours les mêmes choses. On a dit, c'était en tout cas mon sentiment à l'époque, que Vatican II avait fermé l'époque du Concile de Trente. J'ai fait hier une intervention pour manifester mes interrogations à ce sujet. Est-ce qu'un concile qui prétend poser des décrets sub specie aeternitatis peut-il jamais être clos? En ce cas-là, c'est pas seulement pour le 3e millénaire qu'il va compter, mais pour le 6e ou le 8e, si nous vivons encore. Merci. Diamo allora la mattinata, anche se non so resistere alla tentazione di dire che se una ecclesiologia perennis non esiste, e lo accetto, non esiste una teologia perennis. Lo sapeva già San Paolo, che parlava dell'ex parte cognoscitus con quel che segue, e tuttavia, penso non sia fuori strada pensare che ci possa essere o ci debba essere una certa approssimazione, un continuo lavoro di approssimazione, al quale invece dobbiamo battere.